Torneremo presto a casa, il cappello ad un chiodo appenderemo, pochi giorni ed è finita. Ciao caserma, la mia naia finisce qua. Recluta, guarda la mia penna nera, l'avrò nel cuore per l'eternità. Il tempo è passato e sono stanco, il mio dovere sta per terminare. Po, po, po. Dalla mia brama io vedo le stelle, mi fan sognare quel dì che verrà, quando per sempre ritornerò a casa e quelle mura mai più rivedrò. Mai più rivedrò.